Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via giudiziaria dell'avvertenza Varsila. Il 21, mercoledì, aziende e sindacati si ritrovano davanti al giudice per uno dei due ricorsi presentati dopo l'annuncio della chiusura della produzione in Val Rosandra. L'accusa di comportamento antisindacale. Poi arriverà l'appuntamento per il ricorso urgente proposto dalla Regione. Dopo la pandemia tornano a riunirsi oggi in congresso i donatori di sangue friulani. L'appuntamento a Gemona sarà l'occasione per premiare la dedizione di centinaia di volontari e per rilanciare la donazione come valore sociale. A Pordenone è l'ultima giornata della festa del libro con gli autori, un gran finale con innumerevoli appuntamenti. Nel GR le interviste alla scrittrice Giumpa Lahiri, che ieri ha ricevuto il riconoscimento alla storia in un romanzo, e a Gaia Van Der Esch, autrice di un originale viaggio in Italia. A Trieste prendono avvio le giornate del mare, il convegno organizzato da l'IMES, la rivista di geopolitica. Stamattina fra gli interventi il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino e l'ex ministro degli interni Marco Minniti. Per lo sport, alle 12.30 al Friuli l'Udinese scende in campo contro l'Inter. Entusiasmo ma con i piedi per terra, concentrati sull'avversario di oggi, chiede Sottile ai suoi. In C, il Pordenone consolida la posizione in cima alla classifica con la vittoria a Seregno contro San Giuliano per 1-0. La Triestina invece acciuffa per i capelli un pareggio all'ultimo minuto di gioco, 1-1 al Rocco contro la Provercelli. Nel basket va a Udine il primo derby friulano di A2. APU Old Wild West ha battuto al Carnera la Gesteco Cividale per 77-63 nell'ultimo turno di Supercoppa davanti a 3.000 spettatori. Domenica 18 settembre 2022, sono le 8:32 minuti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature alle 8. Trieste 14 gradi. Il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 23 gradi. A Gorizia 12, Udine 11 e 5, Pordenone 10. Tolmezzo 8, Forni di Sopra 3 e 5, Tarvisio 2, Sappada 5 decimi di grado, Piancavallo 8, Monte Zoncolan 1,5, Monte Lussari 2,5, a Grado e a Lignano 14 e qui la temperatura del mare di 20 gradi. Le previsioni. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sui monti nel pomeriggio. Temperature minime basse per la stagione in pianura e sulla zona montana. Sulla costa venti di brezza. In apertura la vicenda Varsi, la vicenda che ha risvolti economici, sociali e giudiziari. Mercoledì aziende e sindacati torneranno in tribunale in seguito a un ricorso per comportamento antisindacale. Varsi la contesta la partecipazione al processo della regione, ma la regione da parte sua ha intentato un'altra causa urgente con l'intenzione di aprire una questione di legittimità costituzionale sull'intera normativa italiana che dovrebbe frenare le delocalizzazioni. Qualche dubbio sulla retroattività dell'emendamento approvato dal Consiglio dei Ministri sulle delocalizzazioni. Al convegno annuale dei giuslavoristi italiani, l'avvocato che ha redatto la causa dei sindacati per condotta antisindacale di Varsila spiega perché rimane importante che il Tribunale del Lavoro condanni l'azienda, costringendola a ripresentare il piano, guadagnando tempo e soprattutto facendo ricadere la procedura all'interno della nuova normativa. Vincenzo Martino, avvocato. La questione più rilevante è che se il giudice del lavoro di Trieste all'udienza fissata il 21 annullasse o revocasse la procedura come effetto della condotta antisindacale da noi denunciata, certamente l'azienda dovrebbe rifare la procedura e rientrerebbe nella nuova normativa. Rimane in piedi anche il pronunciamento chiesto al giudice del lavoro dalla Regione, che chiede con un ricorso un annullamento per comunicazioni false e soprattutto chiede di rimandare la legge, poi emendata, alla Corte Costituzionale per un'eventuale revisione. Secondo l'avvocato che ha redatto il ricorso, la modifica alla legge, pur applaudita da Regione e sindacati, non cambia nulla da questo punto di vista. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritorna in presenza, dopo i due anni di pandemia, il congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, che oggi celebra a Gemona la sua 63esima edizione. Dopo la solenne messa, che sarà celebrata in Duomo alle 9 dall'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, è prevista la sfilata dei gonfaloni delle sezioni fino a Piazza del Ferro, dove si terranno i discorsi ufficiali e la consegna delle benemerenze a 2.151 donatori. La sezione di Gorizia dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva Lucca organizza oggi la Marcia della Solidarietà, a cui parteciperanno tutte le associazioni della disabilità isontine e slovene. Partenza alle 10 dal Parco Baiamonti nel rione di San Rocco. Un contributo versato con gusto è lo slogan della Giornata Nazionale della Sclerosi Laterale Amiotrofica, che oggi vedrà Trieste, Maiano e Percoto i banchetti dell'Aisla, dove sarà possibile acquistare delle bottiglie di Barbera d'Asti di OCG, i cui proventi andranno a finanziare la ricerca su questa malattia degenerativa. Scossa di terremoto nella notte a 4 km ad ovest di Forni di Sotto, 2.7 della scala Richter, profondità di 8 km, non ha provocato alcun danno. Ultima giornata di Pordenone Legge. Ricco il carnet di appuntamenti anche oggi. Tra gli eventi più attesi, la presentazione in anteprima nazionale del terzo capitolo dedicato dallo scrittore Antonio Scurati a M, ovvero Benito Mussolini, Gli ultimi giorni dell'Europa, alle 19 allo Spazio San Giorgio. Stessa location alle 15 per la giornalista Francesca Mannocchi, che presenterà il volume Lo sguardo oltre il confine, dall'Ucraina all'Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi, un viaggio nelle zone più calde del pianeta con le parole chiave, i perché, le storie simbolo di chi ne è stato travolto. A Palazzo Montereale Mantica, spazio invece alla poesia, con la presentazione in anteprima dell'antologia Poeti d'Ucraina, a cura di Alessandro Achilli e Yarina Grusha Possamai, alle 17. Mentre alle 19 il premio Pulitzer Poesia Jericho Brown, straordinario interprete dei suoi componimenti, presenterà per la prima volta in Italia la raccolta The Tradition. E ieri la consegna del riconoscimento La storia in un romanzo a Jhumpa Lahiri, autrice statunitense, figlia di genitori bengalesi. La sentiamo. La vincitrice del premio La storia in un romanzo a Pordenone Legge è Jhumpa Lahiri. La scrittrice americana di origini indiane ha raccontato nelle sue prime opere storie di emigrati indiani negli Stati Uniti sospesi tra le proprie radici e la realtà che vivono. Più recentemente Lahiri ha messo l'Italia e l'italiano al centro della propria vita e della propria produzione letteraria, una passione per il nostro paese che arriva da lontano. Ero sempre un po' fissata con la Roma antica. Amavo tutta la mitologia, l'idea di, insomma, l'architettura. Ho fatto tutto un progetto quando avevo, non so, 10-11 anni, in cui disegnavo i templi, le colonne. Tutte queste cose per me erano affascinanti. Lahiri ha già scritto 5 libri in italiano, l'ultimo si chiama Racconti Romani. Racconta una Roma che sta cambiando molto, racconta una Roma sempre un po' sospesa fra vari tempi, varie realtà. Racconta una Roma in cui tutti si sentono in qualche modo stranieri, fuori luogo. Racconta una Roma che è la salvezza, ma anche per alcuni personaggi anche una trappola. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre a Pordenone Legge, il racconto di un viaggio in Italia ai nostri tempi. È il percorso intrapreso da Gaia van der Esch, durato 4 mesi. Questionario in mano, ha realizzato una ricerca universitaria diventata il libro Volti d'Italia. È stato bellissimo ritrovare il mio paese dopo tanti anni all'estero, riscoprire veramente le persone, il calore, l'accoglienza, la solidarietà che c'è in Italia. Però non c'è solo quello, ho trovato anche tanta rabbia, tanta frustrazione per come la situazione è nel nostro paese. Cioè, ci sono tante persone che soffrono veramente di povertà, di mancanza di opportunità, non arrivano a fine mese, quindi c'è un misto, ecco, di tanta paura, tanta frustrazione, però anche voglia di cambiare e ricreare un po' l'Italia che sogniamo tutti. La gente ha voglia di parlare, è una cosa che ci manca, non parliamo abbastanza tra noi, stiamo perdendo questa capacità di riflettere come paese, come collettività, come comunità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo spazio geopolitico del mare italiano, tornato marca di frontiera nella competizione fra le potenze del pianeta, è al centro delle giornate del mare organizzate dalla rivista di geopolitica Limes, che prendono il via stamattina a Trieste al centro congressi del Molo IV per concludersi domani. Tra gli incontri più importanti di oggi, quello che alle 11 vedrà dialogare il presidente del porto di Trieste Zeno D'Agostino e l'ex ministro degli interni Marco Minniti sul tema della guerra in Ucraina e dei suoi effetti sul Mediterraneo e sull'Italia. Si celebra oggi la 23esima giornata della cultura ebraica, a cui aderiscono 26 paesi europei e che in Italia è coordinata e promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. In regione, a Trieste, sono previste visite guidate alla sinagoga di via San Francesco, ogni ora dalle 10 alle 13, al cimitero israelitico di via della Pace 4, alle 10 alle 11.30, e l'accesso libero al Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner di via del Monte 5, dalle 10 alle 16. Sulla terrazza del museo, alle 18, si terrà al concerto del New Original Klezmer Ensemble Trio. Sempre a Trieste, in occasione dell'84esimo anniversario dell'annuncio delle leggi razziali da parte di Benito Mussolini, avvenuto in Piazza dell'Unità il 18 di settembre del 38, il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci, l'Associazione Nazionale Partigiani, l'Associazione Tina Modotti organizzano alle 11, proprio in Piazza dell'Unità, una manifestazione contro i fascismi, il razzismo e tutte le guerre, con la partecipazione del Coro Sociale di Trieste e del Coro Popolare della Resistenza di Udine. Un percorso storico-artistico e spirituale per conoscere i luoghi dell'arte sacra friulana e le comunità che nei secoli li hanno edificati e custoditi. È quello proposto dalla manifestazione Felix Celi Porta, che oggi vedrà l'apertura straordinaria al pubblico di 14 chiese e cappelle votive nel territorio di 7 comuni: Puttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, dove i visitatori, accompagnati da guide, potranno conoscere un patrimonio di storia e arte spesso sconosciuto. Eccoci allo sport, il calcio in Serie A. Oggi alle 12.30 al Friuli l'Udinese affronta l'Inter di Simone Inzaghi, che ha chiesto ai suoi una partecipazione veloce, dinamica e aggressiva, ma altrettanta determinazione ha chiesto ai friulani Andrea Sottil. Sia l'entusiasmo, ma con i piedi saldi a terra. L'Udinese arriva al big match contro l'Inter avanti di un punto in classifica. Bianconeri con il morale a mille grazie ai risultati ottenuti contro squadre come Fiorentina, Roma e Sassuolo. Nella partita, che si giocherà ora di pranzo, l'importante è non perdere l'umiltà. Andrea Sottil, allenatore udinese. Si entra in campo e si pensa solo a fare una grande prestazione contro l'Inter con gli ingredienti che fanno parte della nostra identità, che sono il sacrificio, la fame, la cattiveria agonistica, l'essere a disposizione del compagno, fare 100 corse per il compagno, avere la fame di conquistare la vittoria, di essere feroci nei contrasti. Questo è quello che dobbiamo fare. Poi sappiamo benissimo che di fronte avremo un avversario molto forte e questo sarà un altro motivo che deve aggiungere ulteriore agonismo e cattiveria calcistica, ci mancherebbe, per andare ad affrontare l'Inter. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C, in Lombardia, il Pordenone ha battuto 1-0 la neopromossa San Giuliano nel match giocato a Seregno. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, il gol nero-verde arriva al 20° minuto della ripresa con Pinato, che di destro supera il portiere avversario dopo un suggerimento di Piscopo. Nel finale il Pordenone avrebbe anche due occasioni per raddoppiare, ma prima Candellone e poi Palombi falliscono davanti ad Alterio. La Triestina allo Stadio Rocco ha affrontato la Pro Vercelli 1-1 il finale, con gli alabardati che riacciuffano il pari proprio alla fine della partita e rimandano ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. Nel corso del match tanti gli errori degli attaccanti, ma anche delle difese molto permissive. La Triestina ha mostrato di essere ancora molto indietro nella costruzione del gioco. Della Morte sigla il vantaggio al 79esimo per i piemontesi. I padroni di casa trovano il pari al 90esimo. L'autore del gol è il difensore centrale Di Gennaro. In classifica, dopo 4 turni, Triestina a quota 3 e appunto vediamo la classifica. Il Pordenone ha consolidato il primo posto del girone A con 10 punti, Triestina 16ª a 3. Nel prossimo turno, sabato 24 settembre, il Pordenone sfiderà a Lignano la Pro Vercelli, seconda in classifica, mentre la Triestina giocherà in trasferta a Trento. Basket. Il primo derby friulano di A2 se lo aggiudica la APU Old Wild West Udine, che ieri sera ha battuto al Carnera la Gesteco Cividale per 77-63 nell'ultimo turno di Supercoppa, davanti a 3.000 spettatori, tra cui il nuovo ingaggio di Udine, lo statunitense Isaiah Brisco, presentato nell'intervallo. Avvio sprint per Cividale, che al quinto minuto conduce 13-5 grazie a Nicolic e Pepper. In breve però Udine recupera il break e passa in testa, consolidando il vantaggio nel secondo quarto con Sherrill e arrivando addirittura a +16, 48-32, subito dopo l'intervallo lungo con Pellegrino. La Gesteco torna in partita sfruttando il tiro da fuori, fino ad arrivare a meno 3 con una tripla di Miani, a cui Palumbo però replica immediatamente, ristabilendo le distanze sul 60-54. Nel finale, Mian e Sherrill blindano il risultato. A 2 minuti dalla fine, parole e colpi proibiti fra Dell'Agnello e Gaspardo, fallo tecnico al primo, espulsione per il secondo. Appuntamento martedì alle 20 con i quarti di finale. Al Palacarnera, Udine sfiderà la Stella Azzurra Roma. Partirà alle 9.30 da Piazza Primo Maggio a Udine la 22esima edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine, che quest'anno coinciderà con l'avvio del circuito Fai Poker, che metterà in rete Friuli Venezia Giulia e Veneto, con tappe successive a Trieste, Verona e Palmanova. Il percorso toccherà molte vie del centro prima dell'arrivo in via Vittorio Veneto, sempre da Piazza Primo Maggio alle 11 al via la 10 km non competitiva, appuntamento che ogni anno richiama moltissimi appassionati. E dalle 10 alle 18 per le vie di Cividale, appuntamento con la Festa dello Sport, consueto evento per gli sportivi di tutte le età, con numerosi appuntamenti ed esibizioni organizzate dalle varie associazioni sportive di Cividale e non. Atlete di tutto il mondo in gara al Pala Fiditalia di Udine, in via Lodi, al torneo internazionale di ginnastica ritmica Swirl and Twirl, organizzato dall'associazione sportiva udinese, riservato a ragazze dagli 8 ai 18 anni. Eccoci ai giornali di oggi, l'apertura del Piccolo di Trieste. Foto verticale, un papà e una bimba osservano dalle rive il mare pieno di meduse. L'appello del Sea Summit per salvare l'Adriatico, il titolo. È l'evento che si terrà dal 5 al 7 ottobre con una 60 di esperti. Il programma e i temi in 2 pagine del giornale. Torniamo in prima, titolo grande di spalla, svolta digitale sugli autobus, il biglietto si fa a bordo. Non torna il bigliettaio, ovviamente. I ticket sono acquistabili a bordo con carta di credito o altri sistemi digitali. E poi, per obliterarli, basta mostrare il QR code a un lettore ottico. Questa è l'apertura del fascicolo interno sulla città. In prima, alcuni richiami. Sull'aggressione ad Aurisina e i danni del gestore di un bar cittadino, spunta la pista della banda del Rolex. Un servizio sui nuovi corsi degli ITS, i corsi post-diploma attivati da diversi istituti superiori. Nello sport, il pareggio all'ultimo minuto della Triestina e il rischio che l'ultima tappa del Giro d'Italia, l'ipotizzata Udine-Trieste, venga in realtà scippata da Roma. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto apre con la notizia del ragazzo di Portogruaro morto durante uno stage in azienda. Lorenzo non è bastato, dice la madre dello studente morto 8 mesi fa a Pavia di Udine durante l'alternanza scuola-lavoro, che denuncia. È avvilente, significa che sulla sicurezza nessuno ha fatto niente. Al centro, fotonotizia sulla maratonina di Udine che si disputa oggi e che apre anche le pagine della cronaca cittadina. Richiami in prima per le notizie sul tempo, crollo delle temperature e in montagna arriva la prima neve e della chiusura del Festival di Topolò dopo 29 edizioni, con il fondatore Moreno Miorelli che a pagina 27 spiega la scelta. Motivi personali, c'è voglia di guardare oltre. Nelle pagine economiche un articolo riporta i dati della Fondazione Nord-Est sul lavoro autonomo, che dal 2005 al 2019 nella nostra regione è calato del 4,1%, con i giovani laureati meno propensi ad avviare un'attività in proprio. Vediamo l'edizione del Friuli Orientale del Piccolo. Il titolo principale in pagina è per gusti di frontiera. Stand aperti fino alle 3 del mattino, orari extra large per l'edizione post pandemia. Bus navetta tra stazione Pala Bigot e SDAG. Alla kermesse enogastronomica dal 29 settembre al 2 ottobre, il giornale dedica l'apertura del fascicolo goriziano. Vediamo gli altri richiami in prima. Cronaca, auto lanciata a tutta velocità sfonda il muro della caserma, è saltata sul marciapiede, ha ignorato lo stop, ha attraversato via Trieste, ha sfondato il muro di cinta della caserma Montesanto, la sede del reparto comando e supporto della brigata Pozzuolo del Friuli, si legge all'interno. In prima anche il caso dei 268.000 dati trafugati via web dal server del comune di Gorizia, ci sono anche carte d'identità e file telefonici. Aiuti contro il caro bollette, 540 richieste e stop al bando del comune per le troppe richieste, è il titolo di apertura dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Un'ampia fotonotizia è poi dedicata a Pordenone Legge, che fa il pienone nonostante le temperature in discesa, notizia che apre anche le pagine di cronaca cittadina. Sempre in prima, spazio infine a un episodio di cronaca nera. Sedicenne accoltellato vicino alla piazza del festival. L'aggressore, a sua volta ferito di striscio, è stato denunciato dalla polizia. Veniamo al Gazzettino, che sotto l'apertura sulla morte del giovane durante lo stage in azienda si occupa della crisi energetica. Gas, allarme e occupazione. L'allarme di Confindustria manca l'8% del metano, sono a rischio 500.000 di posti di lavoro. Un tema che apre anche il dorso di Pordenone. Migliaia a rischio licenziamento, un quinto delle imprese friulane in forte difficoltà e la CGIL chiede un blocco dei licenziamenti come durante la pandemia. Solo il tempo per un annuncio. Ai 1250 metri del rifugio Pordenone di Cimolais, alle 12, la scuola di alpinismo sci e arrampicata Val Montanaia celebra il 60° anniversario dalla fondazione. Sono le 8:50 minuti e 30 secondi. La collaborazione tecnica è stata assicurata da Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Per il momento ci fermiamo qui, l'informazione regionale della RAI torna alla radio col GR Oggi in onda alle 12:15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Tra poco c'è Vita nei campi. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettige e da Antonio Cajazza. Buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.